passato, ha i suoi fini da raggiungere. Ogni tempo ha i suoi fini, ha i suoi mezzi. Beh, tanto per dire una cosa minima, parlando di fonti, non avrebbe molto senso cercare fonti scritte per il Paleolitico, come non avrebbe senso cercare fonti elettroniche per l'Ottocento, cioè registrazioni, cose di questo tipo, come non avrebbe senso fare una storia del Novecento o del tempo presente sui graffiti. Possiamo anche studiare i murales che fanno i nostri graffitari, ma insomma obiettivamente non credo che abbiano un rilievo storico a partire da una cosa marginalissima. Quindi ogni tempo ha i suoi mezzi, le sue domande, il suo modo di ragionare. E quindi ne consegue che verremo anche a una cosa, a chiarire che ogni storiografia ha le sue domande, i suoi metodi, la sua retorica. Retorica intesa come scienza dell'argomentazione. La storia non è ragionata allo stesso modo nelle varie epoche. E vedremo come proprio su questo c'è una frattura che sta maturando. Ne consegue che il primo compito dello storico serio è quello di capire, cioè di storicizzare il suo tempo. Perché se non capisce il suo tempo, non capisce le domande che il suo tempo pone alla storia. Se non hai la capacità di leggere il tuo tempo, e figurati se riuscirai a leggere i tempi precedenti. Ora, a definire un paradigma storiografico ci sono molti aspetti. Il primo e il più importante è quello dei fuochi tematici, il focus intorno a cui si centralizza la produzione storica, i focus intorno a cui si centralizza la produzione storica. Poi, da questo è condizionato dalle domande che ci si pone e dai fini che ogni tempo intende raggiungere. È ovvio che una società come quella medievale, a dominanza religiosa, dove il fine è quello della salvezza dell'anima, eccetera, eccetera, e nel frattempo occorre convertire il mondo, conquistare il mondo al cristianesimo, tende a formulare domande molto diverse da quelle che invece, per esempio, centrale sarà la domanda sulla legittima successione dei pontefici, la storia della Chiesa, il ruolo della tradizione. Ecco, per esempio, è fondamentale capire una cosa: il diverso modo di intendere la tradizione fra cristianesimo e Islam. Per il cristianesimo la tradizione è quello che ha permesso al cristianesimo di avere un approccio di tipo storico, cioè, sentite, la rivelazione non è finita solo con le sacre scritture, che sì, certo, sono là, però la rivelazione continua nella tradizione, man mano che si afferma una tradizione. Il culto della Madonna non è assolutamente nelle scritture, è una cosa che matura grosso. Intanto, per la verità, nelle scritture non c'è manco scritto che Cristo sia Dio. Anzi, a leggerle bene sembra di capire il contrario, perché se Cristo sulla croce dice Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E sta parlando a un altro, non sta parlando a se stesso. E bisognerà fare molte capriole per dire che quello è il Cristo uomo, che però è diverso da Cristo Dio, quindi in realtà è un'autointervista fondamentalmente, cioè che non è una cosa molto seria. Per arrivare a stabilire la divinità del Cristo, ci dobbiamo mettere 3 secoli, dobbiamo arrivare al concilio di Nicea, e di lì poi verrà fuori il problema del culto mariano, che arriva al concilio di Calcedonia, che è del 451. E quindi non sono cose, ma come sono venute fuori queste verità? Attraverso la tradizione. La tradizione è quello che poi man mano modificherà storicamente, indurrà una lettura storica delle scritture. In fin dei conti il modernismo non è altro che il figlio legittimo di questo approccio. La tradizione diventerà un fatto, diciamo, stabile e in qualche modo proibitivo rispetto a sviluppi successivi, col Concilio di Trento, non prima. E in ogni caso però resterà, per esempio, il fatto che Pio XII proclama il dogma dell'Assunzione della Madonna in Paradiso il 15 agosto, è in realtà una cosa che si fonda su un culto plurisecolare che quindi costituisce tradizione. Quasi dappertutto ci sono santuari o chiese intestate all'Assunta, e a quel punto quindi in qualche modo continua. Ecco, nell'Islam questo ha tutto un altro sapore, tutta un'altra funzione, e invece più sul lato l'Islam non separa fra politica e religione. Nel cristianesimo c'è stato, per esempio, Papa Gelasio che ha teorizzato le due spade, quella secolare, quella religiosa, che in qualche modo sono connesse, ma insomma sono distinte. Nell'Islam questo non c'è mai, il califfo è capo politico e religioso. E il paradosso è che l'Islam non ha una chiesa, non ha un clero vero e proprio, un clero organizzato con una catena di comando, per intenderci. Però è ancora meno secolarizzato del cristianesimo, proprio perché la sua idea di tradizione qual è? Quella delle fatwa, quella del precedente giurisprudenziale. Perché morale, politica, diritto nell'Islam non sono cose separate o separabili. Questo se ci serve poi per un punto che vedremo dopo. Allo stesso modo abbiamo detto che ogni storiografia ha le sue fonti, il suo modo di trattarle, le sue strategie argomentative. Noi oggi riusciamo a toccare solo il primo punto sostanzialmente, cioè quali sono i fuochi tematici di una storiografia a venire e perché. Allora, partiamo prima di tutto da una cosa. Cosa distingue il tempo presente? Primo, la velocità dei processi. E qui si pone il problema del Novecento, che già anticipa una cosa, anticipa uno dei fuochi tematici con cui dobbiamo misurarci, che è la storia del Novecento, di cui c'è un'edizione molto ridotta, ma poi vedremo, poi ci torneremo su questo punto. No, il Novecento è una cosa molto più complicata, che ancora noi non abbiamo iniziato a studiare, la cosa vi sorprenderà, ma in realtà il Novecento è tutto da scoprire. Ma nemmeno Hobsbawm ha qualche intuizione, ma comunque mo ci vediamo. Secondo, evidentissimo, c'è il processo di globalizzazione, c'è l'avvicinamento c'è il collasso della dimensione spaziale. L'impero romano e l'impero cinese potevano pensarsi come sovrani unici, perché non si toccavano, ognuno nella sua sfera. E oggi tu non hai assolutamente questa soluzione. E esiste un contatto che non ha precedenti. Essenzialmente è il contatto fra l'Europa, e per Europa io intendo Europa, le due Americhe, la Russia e l'Australia, che sono l'Europa fuori Europa, cioè il mondo cristiano sostanzialmente, e l'Asia. Oh vabbè, ci sarebbe anche l'Africa nera, ma tanto non conta un cazzo, cioè, possiamo anche non porci il problema, tanto è tenuto, non... Invece no, l'Asia è, no, lì sono civiltà toste che hanno un senso di sé. Anche in Africa sono esistite civiltà che hanno avuto anche certo sviluppo, eccetera, ma c'è molto meno continuità. Sono quelli che Engels chiama i popoli senza storia. Senza storia più che altro perché l'hanno rimossa, non l'hanno sistematizzata e mantenuta nella memoria collettiva. Voi mi direte, ma il contatto fra europei e asiatici era già stato nel 700-800 con i processi di colonizzazione, è dal 600 che gli olandesi occupano l'Indonesia, è dal 500, fine 600, gli spagnoli occupano le Filippine, e poi man mano è nel 700 che gli inglesi arrivano in India, eccetera eccetera. Quindi in realtà il contatto c'era stato, sì, ma il contatto fra il colonizzatore e il colonizzato è una cosa diversa. È il colonizzatore, che in genere è quello che ha l'artiglieria migliore, che spiega al colonizzato cosa deve fare, e non si pone minimamente il problema di capire il colonizzato, se non per governarlo, e comunque nella coscienza della sua inferiorità culturale. L'antropologia nasce come scienza dell'imperialismo, ma nasce sul presupposto che quelli sono poco selvaggi, presupposto non del tutto sbagliato, però un po' forzato tendenzialmente. Terza cosa che caratterizza il nostro presente, la perdita del senso prospettico, è l'eterno presente. Questa è una società che più che mai ha smarrito il senso della prospettiva e tende, lo vedete anche dall'andamento della crisi, a pensare il futuro come mera prosecuzione o al massimo proiezione del presente. L'idea è tutto deve l'idea soprattutto occidentale, però guardate che in fondo un po' anche i cinesi e indiani ne sono contagiati, al massimo ci avranno delle dimensioni rivendicative di rivincita, eccetera, però tendenzialmente l'idea è che il futuro è proiezione del presente, proiezione senza catastrofi, senza soluzioni di continuità. Perfino quelli dell'ISIS pensano il futuro come ricostruzione del califfato, come rivendicazione di una propria soggettività, ma in un mondo che tendenzialmente loro immaginano che tutt'altro che in sviluppo, non hanno il paradigma progressista, che invece è quello che ha caratterizzato l'Ottocento. L'idea del progresso permanente, che paga anche i prezzi, questo poi dipende dalle scuole filosofiche, per esempio il marxismo paga anche i prezzi delle sue soluzioni di continuità, però in una dimensione tendenzialmente ottimistica della storia che ha i suoi fini, cioè, potrebbe essere una visione ingenua, però era una visione che aveva una dimensione prospettica. Il tempo presente ha smarrito questa dimensione prospettica per due ragioni, una di ordine culturale, la crisi delle facoltà umanistiche, delle scienze umanistiche e in particolare quello che io chiamo il silenzio della storia. La storia sta riproducendo la produzione storiografica, salvo punte, sta in genere ripetendo gli stessi discorsi. Il Novecento è essenzialmente il secolo di cui dobbiamo studiare la lite, se dobbiamo studiare soltanto il nazismo, la Shoah, eccetera eccetera, o anche i gulag e lo stalinismo, ma alla fine rifriggiamo la stessa roba, tutte le volte. Qualcuno inizia a prospettare discorsi un po' diversi sul Novecento, però nel complesso ancora c'è una dimensione, appunto il Novecento resta un enorme totem, ancora tutto da scoprire, intanto da fotografare nelle sue dimensioni. Pensate che notavo una cosa, che nessuno ha notato, come il Novecento rappresenti nella storia dell'umanità una specie di svolta gomito, nel senso che sicuramente non potranno mai più succedere cose che sono successe nel Novecento. Vi faccio un esempio. Nel Novecento la popolazione mondiale è cresciuta dalle 5 alle 6 volte. Grosso modo era 1,5 miliardi, 1,3 miliardi, 1,5 miliardi agli inizi del secolo. Quando si è chiuso il secolo aveva superato i 6 miliardi. Quindi grosso modo proporzione di 1 a 4, 1 a 5, diciamo. Una crescita del genere non c'è mai stata nella storia precedentemente, un indice di sviluppo demografico così intenso, ma soprattutto non potrà mai più esserci, perché se in questo secolo dovessimo quadruplicare, arriveremo a 24 o 36 miliardi di persone, dopodiché non pare che la cosa sia particolarmente praticabile, a meno di grandi stragi, di guerre, di pandemie che riportino la pubblicità. Quindi non pare che questo sia un fenomeno storico. Pare ci stanno pensando, ma non pare che un fenomeno storico del genere possa ripetersi. Allo stesso modo c'è da chiedersi se un ritmo di crescita della scienza, per cui il bagaglio di conoscenze è mediamente raddoppiato ogni 10 anni, se la memoria non mi inganna, per cui hai avuto una crescita esponenziale, per cui oggi il bagaglio di conoscenze è più di 120 volte superiore a quello. Sì, ma hai difficoltà a chiuderla, devi lo stipide ti fa resistenza. Ecco, il Novecento è una cosa tutta da capire ancora. Qui è il silenzio della storia, che si accompagna a un'altra cosa, a un'evoluzione antropologica, che è quella che io definisco come l'iperindividualismo. Certo, la modernità ha portato con sé nel mondo occidentale l'idea di individualismo, di specificazione individuale. Il tardo Novecento ha aggiunto una dimensione particolarmente esasperata che tocca il suo vertice nella rimozione rifiuto. Si sono combinate due cose: la spinta sempre più decisa dell'individualismo e il processo di secolarizzazione e di rimozione religiosa, del mondo religioso, per cui la risultante è stata l'intollerabilità dell'idea di morte, la rimozione dell'idea della morte. Però in questa maniera finisce per affermarsi l'idea di un'umanità. Voi pensate soltanto, fa un po' ridere, ma pensate soltanto agli studi che si fanno in tutta serietà negli Stati Uniti, ma per non andare troppo lontano, in San Raffaele qui a Milano, sull'immortalità. Per cui quando vengono tagliati i soldi alla ricerca scientifica in tutta Italia da Berlusconi, l'unico progetto che non viene tagliato è quello sull'immortalità del San Raffaele. Io penso perché fosse personalmente interessato il cavaliere. E lo stesso Don Verzé, poco prima di morire, rilascia un'intervista al Corriere per i suoi 90 anni in cui dice: va bene, in fondo, dove è scritto che bisogna morire? Io avrei voluto dirgli: guarda, io sono ateo, per me, ma tu sei prete, cioè, sta scritto nella Bibbia, sai? Cioè, non vorrei dire, ma vi dà l'idea di come questo discorso è diventato assolutamente molesto e insopportabile. Però questo significa una cosa, che se tu pensi a un'umanità eterna, un'umanità eterna smette di procreare, un'umanità eterna non ha fine, nel senso della fine, ma un'umanità che non ha una fine, non ha un fine. Smette di avere un fine e vive in un eterno presente. È una dimensione proprio psicologica netta. Tutto questo, fuso insieme a quello che dicevo prima a proposito del silenzio degli storici, significa essenzialmente la rimozione della dimensione prospettica. Infine, altra caratteristica che io vedo eminente è la caoticità, più che la complessità, dei processi in atto, che tocca un nervo sensibile. Se quello che accade è così caotico da non poter essere organizzato in sistema di conoscenze, ovviamente non puoi stabilire un senso del divenire, quindi non c'è più un senso storico. Perché se quello che accade non sai bene quanto accada casualmente, quanto accada inconsapevolmente, quanto accada consapevolmente, quanto per l'interdipendenza dell'azione dei singoli soggetti, quanto per l'azione, la determinazione del o dei singoli, se non hai questo quadro d'insieme e soprattutto si sovrappongono continuamente processi imprevisti e soprattutto diciamo dinamiche controintuitive, è inevitabile fondamentalmente che si perda il senso dell'insieme. Quando io dico che il Novecento non è stato capito è proprio perché c'è la difficoltà di cogliere un senso in quello che è accaduto nel Novecento. C'è stato fino, se ci pensate bene, fino agli anni 50, quando la caduta dei fascismi permise di dire, vabbè, il senso di sviluppo è quello del cammino della libertà, il fatto che ci possono anche essere momenti come il fascismo di crisi, di rigetto, di però poi alla fine la democrazia, la dimensione della libertà e della democrazia prevale. E questa filosofia della storia era profondamente sentita. Quando invece è caduta l'Unione Sovietica, c'è stato un tentativo simile, che è stato quello di Fukuyama, però poi alla fine che cosa è diventato? È diventato la fine della storia. Quindi vedete come in realtà c'è la teorizzazione del silenzio della storia, perché è chiaro che se alla fine della storia che cazzo c'è da scrivere più? C'hai soltanto da dire ai selvaggi di diventare come te, cioè questo è il cuore del problema. E in realtà tutto questo poi non è passato, il paradigma progressista si è frantumato, vuoi per la questione ambientale, che per la prima volta pone dei problemi, vuoi sarà per il fatto che non c'è stato quel trionfo del modello capitalista di liberal democratico che sognava Fukuyama, ma sono venute fuori cose molto più incasinate. Sarà perché tutto sommato si avverte di più lo smarrimento di fronte a un processo storico che sembra prenderti la mano, non sei tu che lo guidi, è lui che guida te. Sarà per una ragione o per l'altra, c'è una sorta di ritirata rispetto al tentativo di costruire un senso storico dell'accaduto. Anche perché questo era stato risolto nell'Ottocento, fino al Novecento, con la filosofia della storia. Oggi un approccio di tipo storico-filosofico è ancora in grado di darci un senso di quello che è accaduto? Ecco, poi potremmo andare a vedere ciascuno di questi punti. Quando io dico la velocità dei processi, accennavo al Novecento, e dico anche a un'altra cosa, l'espansione spaziale. Si può più studiare il Novecento come si è studiato fino agli anni 70 sostanzialmente. Guarda, fino agli anni 70 c'è una produzione storiografica che ancora produce delle novità. Per esempio, c'è la generalizzazione dell'esperienza degli annal, capita malissimo, che comunque porta alla scoperta della storia sociale, che poi è anche la storia culturale, la storia delle donne, la storia dei giovani, eccetera. E sostanzialmente quello è l'ultimo grido, il canto del cigno della scuola storiografica nata fra fine Settecento e l'Ottocento. Dopo c'è pura ripetizione, anzi la scuola degli annali viene capita coi piedi, perché c'è una tendenza a scrivere una storia sempre più analitica, sempre più ridotta come durata e come ambito spaziale e come argomento. Questo ti fa perdere il senso della storia. Se tu scrivi la storia di tutti i licei d'Europa, uno per uno, non hai ancora fatto la storia della scuola pubblica in Europa. La storia, il problema è che tu hai avuto due secoli in cui la scuola statale è stato il mezzo precipuo attraverso cui abbiamo moltiplicato conoscenze, alfabetizzato la società, istruito la forza lavoro a livelli di qualificazione più alti, abbiamo promesso mobilità sociale, fino a un certo punto l'abbiamo anche ottenuta. Bene, tutto questo funziona ancora? Quali sono stati i risultati? Fino a che punto i risultati sono stati positivi e quando invece? Perché c'è una crisi della scuola pubblica oggi? E questo richiede una storia di due secoli di scuola statale, di scuola pubblica, che non può essere la sommatoria della storia di ogni singolo liceo o scuola elementare, non avrebbe nessun senso. Ha il problema di capire l'insieme del fenomeno, chiaro? Quindi la velocità dei processi in questo senso paradossalmente ti obbliga, non puoi più inseguire ogni singolo pezzetto, perché oltretutto la produzione di fenomeni è così abbondante e veloce che fino a quando hai scritto la storia di una cosa ne sono successe altre 300. La storia, diciamo, dagli anni 30 in poi ha usato molto il microscopio e la lente di ingrandimento. La storia che viene ha bisogno di usare il telescopio. Abbiamo bisogno di vedere non l'infinitamente piccolo, ma l'infinitamente grande. Altra cosa, il processo di globalizzazione ha dentro due questioni come focus di grandissimo rilievo. Primo, il problema della storia mondiale, che tutti ci si stanno arrovellando, però che cos'è la storia mondiale? Pensiamo intanto a una cosa, si può scrivere una storia mondiale dalle origini? Sì, se scrivi per esempio una storia biologica del genere umano, certo, se scrivi una storia per esempio dell'ambiente, sì, l'ambiente ha avuto una sua evoluzione, lo puoi considerare un dato unitario, ma puoi fare una storia politica del mondo a partire dalle origini? Se tu fai una storia dell'impero romano e dell'impero cinese, puoi al massimo fare una comparazione, ma non c'è una storia comune dell'impero romano e dell'impero cinese, perché sono sempre stati separati, vengono fuori due storie che hai affiancato e magari cerchi di paragonare. Allo stesso modo in cui, che senso avrebbe una storia degli Aztechi e del Mikado in Giappone? Non hanno nulla in comune. Verrebbero fuori due narrazioni distinte, separate. E quindi, di conseguenza, il vero problema di volta in volta è quello di trovare le travi unitarie che reggono. Allora, se stai parlando di una storia naturale, la puoi fare dalle origini. Se stai parlando, per esempio, di una storia di trasferimenti culturali, beh, per esempio, già dalle grandi scoperte geografiche, ma forse addirittura un po' prima, si può tentare una storia delle influenze culturali reciproche. Che effetti ha nei rapporti? Per esempio, c'è un bel libro che è uscito ultimamente che dimostra come l'Europa perde completamente di vista l'Oriente, a cominciare dal vicino Oriente islamico, per non dire poi proprio come fenomeno culturale, come interagenza, dopo la riforma protestante. La riforma protestante apre un altro tipo di polarizzazione, per cui bene o male con l'Islam noi abbiamo avuto un interscambio culturale, basti pensare ad Avicenna, Averroè e San Tommaso d'Aquino, per dirne uno, la riscoperta di Aristotele, gli sviluppi del pensiero matematico, c'è stato un interscambio piuttosto intenso, poi è andato un po' scemando, ma sostanzialmente dopo il 500 basta, non se ne parla più. Allora, se vuoi fare una storia dell'interscambio culturale, lì per esempio scoprirai che ci sono momenti di crescita e momenti di caduta. Bella è per esempio la storia della degli sviluppi tecnologici fatta da Coir, che dimostra come in realtà i cinesi erano avanti all'Europa fino al 500-600. Poi c'è una chiusura, e questo per esempio è un problema storiografico grossissimo da indagare. Perché i cinesi, che erano più avanti, a un certo punto hanno un collasso e regrediscono fortemente, perdono per esempio una serie di tecniche, una serie di anche acquisizioni. Mi rendo conto che può far ridere pensare che una particolare imbragatura dei cavalli sia una soluzione tecnologica, ma in realtà per il tempo lo era. E la storia, la grande divergenza di Pomeraz, cioè, cerca di intervenire in questo. Quindi il primo problema è capire la storia di che e a cominciare da quando. La storia politica, si può fare una storia politica, ma anche diciamo semplicemente dall'Ottocento in poi, sì, a condizione che tu scelga gli assi narrativi giusti. E guardate, una delle grandi difficoltà che fa sì che non ci sia un'opera soddisfacente sulla storia del mondo, sulla storia politica del mondo dal 45 in poi, qual è? In realtà tu, fino alla Seconda Guerra Mondiale, ti occupi sostanzialmente dell'Europa, a cui annetti, in epoca piuttosto recente, la Russia e gli Stati Uniti. Beh, sei proprio, sei il Giappone. Ma molto... Riesci a dare una spiegazione più o meno unitaria di queste cose, anche perché c'è un linguaggio comune anche in politica, bene o male, male secondo me perché in realtà il discorso è molto rozzo, ma in termini di antifascismo e fascismo tu metti dentro l'Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, però anche la Seconda Guerra Mondiale, perché questo, e in fondo dai, anche il Giappone, il governo del Mikado è un governo fascista, oddio, un po' di forzature, però ce lo fai rientrare, no? I guai cominciano dopo, quando sì, anche la chiave del bipolarismo, sì, ma non spiega tutto da solo, perché poi per esempio c'è il problema dei non alleati, dei delineati della Cina, e non solo, ma soprattutto è una cosa, fino al 45 la storia politica poteva essere essenzialmente una storia con accentuazione ideologica o con accentuazione militare. Poteva avere un'accentuazione anche giuridica, per esempio le teorie dello Stato, eccetera, vabbè, più o meno. Dal Novecento in poi ti contano anche aspetti sociali, il ruolo della donna, giovani che fanno casino, il problema della pillola e dei comportamenti sessuali, la storia della pazzia che ti fa Foucault, non solo, ma mentre grosso modo la storia economica e la storia politica hanno sempre proceduto un po' separatamente, salvo alcuni momenti di intersezione come la grande crisi, il New Deal, vabbè. Oggi invece obiettivamente questo intreccio è molto più continuo, più costante, e quindi si pone un problema serio. Storia del mondo è, ma di quale, di cosa? Si può fare una storia del mondo che ignori, per esempio, il problema, dico una sciocchezza, il problema del velo islamico, il problema della buona parte dello scontro nel mondo islamico, dall'Iran alla primavera araba, c'ha dentro buona parte di queste rivendicazioni. Puoi fare una storia della Cina, puoi fare intanto una storia del mondo senza la Cina negli ultimi 30-40 anni, è una cosa da ridere, ma puoi fare una storia della Cina senza capire tutta una serie di aspetti di come la Cina si è adattata ai processi di modernizzazione e di come invece non si sia adattata e abbia cercato di forzarli. Questo pone un altro problema serissimo. Il secondo, il primo problema è quello della storia mondiale. Il secondo problema metodologico molto serio connesso è quello della traducibilità. Guardate che noi parliamo un linguaggio che sembra unico. Tutti parliamo di nazione, tutti parliamo di tradizione, parliamo di modernità, parliamo di classi, parliamo di ideologie, partiti, elite. Il cacchio di guaio è che se vai a raschiare un pochino sotto la vernice, scopri che ognuno ha un significato suo. Nazione non significa la stessa cosa per noi, per gli indiani, per gli islamici, per i cinesi. Per noi c'è il vecchio dibattito se nazione è per sangue o è per cultura. Culture o civilization. E vabbè. Però già se lo dice agli indiani non è proprio così, intanto perché gli indiani sono pressoché inassimilabili dal punto di vista etnico, eccetera, ma anche culturale, per carità, una tale insalata. Per gli indiani è un fatto essenzialmente territoriale, è il territorio. Non solo, la cosa interessante è che gli indiani si sentono indiani quando sono all'estero, cioè quando si scontrano con l'altro, possibilmente islamico, è pakistano che gli fa schifo. Ma quando è all'interno, questo fatto che parlano inglese e che la maggioranza di quelli che non sono di New Delhi, eccetera, rifiuta l'hindi. Cioè, se tu per strada, mi diceva Dani, chiedi un'informazione a uno in hindi, fa finta di non aver capito, gliela devi chiedere in inglese, se stai negli stati dravidici. No? Quindi, per esempio, questo è un problema. Per non dire poi la modernità, sì. Vai a vedere che cacchio significa modernità per ciascuno, sovranità, impero. C'è tutto un glossario da ricostruire, una traducibilità di concetti. Cos'è la strategia per gli islamici e cos'è la strategia per noi? Se non capisci questo, non capisci l'ISIS. Non, e infatti gli americani non lo stanno capendo e stanno facendo delle frittate. Vabbè, gli americani hanno il limite di essere di una rozzezza culturale che non ha limiti. Cioè, no, quando tu devi fare una grande alleanza internazionale con gli islamici per attaccare l'Afghanistan e proponi di chiamarla crociata infinita, quelli ti sputano in faccia, perché se vai a dire un islamico crociata non piglia mica tanto bene, insomma, e c'ha pure le sue ragioni, poverino. Veramente ha fatto questo numero di azione? Sì, e poi venne di moda dopo due giorni, qualcuno gli disse: no, vedi che gli islamici crociata non danno più. Ah no? Sì. E così cambiarono, libertà durevole, enduring freedom, ma all'inizio era crociata infinita. Ma per la verità di gaffe del genere ne hanno fatte, per esempio non capire che loro avrebbero scatenato il fondamentalismo facendo due gaffe bestiali. La prima, dopo l'insurrezione della moschea, con la strage della moschea alla Mecca, i sauditi chiamano gli americani. Gli americani sono così coglioni da mandare una serie di base di loro soldati in Arabia Saudita. Non solo, vabbè, Arabia Saudita è grande, sta il deserto, no, proprio nella striscia di terra dove ci sono la Mecca, Medina, eccetera. Cioè, testa di cazzo, per gli islamici è una profanazione, soldati cristiani sul terreno sacro della Kofgurt. Poi, siccome sono proprio imbecilli, che cosa fanno? Contro i russi che hanno invaso l'Afghanistan, promuovono una sorta di vere e proprie brigate internazionali islamiche per andare a combattere in Afghanistan. Sapete quanta gente c'è andata? 250.000 persone. Non sto dicendo. Tenete presente una cosa, le brigate internazionali non superarono mai le 60.000 unità e credo, se li mettiamo insieme i vari periodi, Tukwanzi, Shkafat, forse arriviamo a 60.000, ma in realtà no. E l'Europa era più popolata all'epoca di quanto non fossero i paesi arabi in quel momento. Vabbè, dentro ci stavano anche iraniani, ci stava anche qualche indonesiano, vabbè, c'era anche proprio il mondo islamico, e va bene, d'accordo. Però guardate, 250.000 sono assai. E sono prevalentemente, poi se togli i 4 iraniani, 50 afghani, e ai pakistani erano parecchi, ma yemeniti, libici, sauditi, tunisini, egiziani, palestinesi. Ora, brutto imbecille, come fai a non capire che dopo che gli hai fatto scoprire la dimensione dell'islamicità, cioè quello è il primo momento in cui gli islamici si costituiscono in soggetto politico, sia pure sotto forma di brigata internazionale. Secondo te poi, cacciati i russi, quelli si sciolgono, tornano a casa e se ne scordano. Cioè hai avuto Al-Qaeda, ma l'hai fondata tu, brutto imbecille. Ecco, questo è un esempio della rozzezza infinita con cui gli americani fanno gli straordinari, però devo dire che anche gli europei di scivolate ne hanno prese parecchie. Quindi c'è questo altro aspetto che è uno dei problemi centrali della generazione di storici futuri, che è quello della traducibilità dei concetti, che non è solo un fatto di lessico, prendi dizionari, no, devi scavare nella storia dei concetti in ciascun ambito, in ciascun, quindi hai bisogno di confrontarli, quindi dici vabbè, gli esperti di storia araba faranno questo, sì, ma poi li devi mettere insieme, li devi confrontare per capire le sfasature, i livelli diversi, perché questo poi è uno degli aspetti della globalizzazione, il mondo globalizzato. Sa dov'è? Sì, sì. Con l'acqua a me. Non sa che è finito. Vabbè, c'è solita. Prendi non la bottiglia verde, ma l'altra, perché la verde forse non sarà già pronta, le due verdi. 250.000 è chiaro. 250.000. È più grosso dell'esercito italiano. Beh, dell'esercito italiano adesso, perché sì. Cioè, comunque 250.000 sa. E anche se te ne rimangono 25.000, è una base di partenza. Sono cazzi per una guerriglia. E infatti non hanno capito che quello poi se lo sarebbero ritrovato loro in Iraq, a parte che anche in Afghanistan. In Afghanistan però rimangono gli afghani e i pakistani, meno gli altri. Invece il fenomeno Brigate Internazionali si riproduce pari pari in Iraq, dove non a caso al-Zarqawi era giordano, mi pare. Beh, ma in Siria adesso leggevo che ci sono adesso circa 81 nazionalità che stanno adesso è successo in Siria, cioè hai evocato il demone, proprio Faust ha evocato il demone che non controlla più, Mefisto. Questo anche perché c'è questa fondamentale incomprensione del... Ecco perché lo storico ha questo compito. Guardate che una cosa interessante, sto pensando di riprendere il mio abuso pubblico della storia e di rifarne una cosa in cui si dimostra come le scelte politiche di questi anni sono state strettamente correlate al tipo di storie che si sono scritte. Ciao, uè, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Dottore. Dove sei il dottore? Aldo. Ciao. Ciao bestia. Quindi questo della traducibilità sarà uno dei focus centrali del se una storiografia avrà ancora senso. Anche la perdita del senso prospettico è in parte causa ed effetto della come dire è causa ed effetto di un processo un po' più generale che ha investito sì le scienze storiche, ma anche, per esempio, l'approccio con il mondo, con il paradigma progressista. La perdita di senso storico in qualche modo nuoce al paradigma progressista, lo rende inutile. Ma l'assenza di un fine progressista in qualche modo rende inutile la produzione storiografica. Tutto diventa la difesa di un eterno presente. Da ultimo il problema della caoticità e complessità del presente, la difficoltà di creare senso storico, che rinvia al problema di tutt'altro che leggero del carattere deliberato dei comportamenti umani. E perché questa è una cosa molto presente in Marx ed Engels. Engels scrive e dice: ma in fondo ciascuno degli attori ha una sua strategia, una sua idea, ma il processo storico finale sarà qualcosa che non somiglia alle intenzioni di nessuno degli attori, sarà una risultante diversa. Il che naturalmente pone una serie di problemi, lasciamo perdere sul futuro, ma anche sull'interpretazione del passato, cioè fino a che punto l'esito della guerra del Vietnam è dovuto alle tattiche militari dei Viet Cong, fino a che punto ha inciso la protesta nei paesi, diciamo, europei, Stati Uniti, eccetera, fino a che punto ha pesato l'errore di conservare la coscrizione obbligatoria da parte del governo americano. Coscrizione obbligatoria è una cosa che è stata sempre detestata dagli americani. Loro l'adottarono nel 17 per la prima guerra mondiale, però subito l'abrogarono. La riconfermarono per la seconda guerra mondiale, però dopo non l'abrogarono, la mantennero in piedi con scarso entusiasmo della gente. In gran parte la protesta del movimento antiguerra è la protesta e il fenomeno, per esempio, dei disertori che varcano il confine con il Canada, eccetera, perché vogliono sottrarsi al servizio militare. Un po' per non essere coinvolti in una guerra che non sentivano come prova, ma soprattutto per il rifiuto di andare a rischiare la pelle. quello ha avuto un suo peso. Beh, ma come si fa a determinare il peso di ciascuno di questi elementi? Per esempio, leggevo adesso un libro sulle rivolte arabe, varie spiegazioni del perché. Allora, in generale va bene, c'è stata la spiegazione di Kurbash, del guardate che quando una società varca la soglia del 50% degli alfabetizzati e soprattutto la natalità crolla sotto i 3 figli per donna, entro 25 anni si produce un processo rivoluzionario. E più o meno, facendo delle analisi sul passato, ma sono abbastanza confermato. Siccome effettivamente nel mondo arabo c'è stato questo fenomeno già da 25 anni, grosso modo, il caso della natalità, l'alfabetizzazione, resta da capire però perché questo ha funzionato nelle repubbliche militari e non ha funzionato nelle monarchie tradizionali, dove non è che proprio i dati siano tanto diversi. E qui tutta una discussione. Allora, ovviamente le monarchie la spiegano con la superiorità del loro modello che rende impossibili le rivolte, se non impossibili, il fatto di mantenere un principio di legittimità legato a una dimensione divina scoraggia in qualche modo. Sì, solo che però non spiegano come mai tutte le repubbliche, ad eccezione del Sudan che nasce repubblicano, tutte le altre sono tutte il prodotto di colpi di Stato militari che hanno deposto monarchie precedenti. Allora c'è una studio che dice no, secondo me il problema è la rendita petrolifera. Guarda caso i paesi che hanno più rendita petrolifera a disposizione, come i paesi del Golfo, che hanno potuto spendere per mantenere il welfare, quindi sovvenzioni alimentari, spese per il pubblico impiego, eccetera, eccetera, hanno retto meglio per l'organizzazione del consenso. Non si capisce però perché questo non sia valso, perché Tunisia, Egitto, Yemen, Siria hanno una rendita petrolifera piuttosto scarsa, ma la Libia no. La Libia è un paese petrolifero di quelli seri. E allora perché? In realtà, secondo me, il discorso, poi ci sono tutta un'altra serie di teorie che non stiamo qua, il discorso secondo me non è tanto della causa scatenante, che non c'è mai, anche se può esserci un detonatore, che nel caso specifico è stato le rivolte del pane, le rivolte del couscous, perché a seguito dell'alluvione di liquidità deciso per far fronte alla crisi, ci fu un massiccio investimento nelle commodity alimentari in particolare, che portò, fece schizzare il costo dei cereali a livelli. Sì, però secondo me non è tanto il singolo fattore, ma quanto la combinazione dei diversi fattori ad aver determinato poi che cosa, e ad aver determinato sì uno stato di instabilità politica comune, ma che ha avuto percorsi molto diversi, perché la Tunisia è una cosa, la Libia è un'altra, l'Egitto è un'altra ancora, la Siria non ne parliamo, lo Yemen non ne parliamo, il Bahrain. E tendenzialmente è la combinazione dei vari fattori. Ecco, guardate come diventa complicato in un mondo così complesso, così diventa difficile l'individuazione delle cause. E diventa il problema centrale. Allora, riassumendo e avviandoci alla fine per ora. Che cosa c'è? Cosa è stata la storiografia finora? La nostra storiografia ha avuto queste caratteristiche, prevalentemente narrativa, specialistica, a dominante specialistica. lo storico dell'economia non si occupa di storia della politica, lo storico della politica non si occupa di storia del costume. In terzo luogo, è stata a dominante nazionale la nostra storiografia. O si occupa di storia delle relazioni internazionali intesa come storia dei rapporti fra stati, guerre, paci, trattati, ma è stata una storia eminentemente politica. La leadership è stata della storia politica. Ha avuto strategie argomentative prevalentemente analogiche. La analogia è sempre stata l'argomento principe per dimostrare qualcosa. Solo che Federico II già allora dice: sì, ma tanto con la storia un episodio precedente che giustifica qualsiasi cosa lo trovi sempre, quindi no. Ancora, ha avuto una finalizzazione eminentemente etica. Anche lo scontro, guardate, fra capitalismo e comunismo, fra mondo, era molto giocato in termini sì anche di funzionalità economica, ma essenzialmente di preferibilità di uno dei sistemi dal punto di vista dei valori morali. L'eguaglianza rivendicata dai regimi comunisti, la libertà. Ecco, per esempio, fino all'Ottocento le idee di eguaglianza, di libertà e di fraternità, per la verità, formavano un unico gruppo di idee che si proponevano. E dopo che l'idea di fraternità viene mollata e diventa soltanto una cosa lasciata in eredità ai cattolici, ai cristiani, è una cosa un po' zuccherosa, non ce ne fotte niente. Però la dimensione politica della fraternità, per esempio l'amicizia su cui scrive Tocqueville, la funzione politica di un concetto del genere in un regime democratico, ce ne siamo scordati. E invece c'è molto il referendum: eguaglianza o libertà? Se vuoi la libertà, devi essere disposto a un po' di diseguaglianza. Se vuoi l'eguaglianza, libertà non ne stiamo parlando proprio, cioè era profondamente, perché era un approccio storiografico eminentemente eticista. Noi di che cosa abbiamo bisogno? Di una storia narrativa? Ah, dimenticavo un'ultima cosa: la nostra storia, soprattutto negli ultimi 30 anni, è stata essenzialmente analitica, sempre più analitica, sempre più specialistica, sempre più analitica, sempre più la storia del condominio di Piazza Curzio 14, che potrebbe essere una delle mie prossime opere. Però voglio una parte importante per Caroli, per il mastino. Il Caroli che... Oh, che poi la cosa divertente è che questa storiografia, per Minuzzi e Bruscolini, non la legge nessuno, perché soprattutto gli specialisti non la leggono, perché se tu sei lo specialista della storia del fagiolino medio in Abissinia, che cosa te ne strafotte della storia della cattedrale di Bangkok scritta da Martino, il quale a sua volta ignora del tutto la storia delle donne a Locorotondo fatta da Sara? Cioè, perché se la metti su questo piano, la frammentazione è tale che anche la storia delle donne tu non la fai mettendo insieme tutta questa minuzia di articoli, anche perché tu non farai la storia delle donne, farai la storia delle donne nel tuo quartiere, naturalmente, per cui la storia delle donne negli altri quartieri non ne fotte niente. Quindi alla fine questo è anche uno degli aspetti del silenzio della storia, della storiografia attuale, il fatto che una dimensione così esasperatamente analitica produce risultati, no, di questo genere scarsamente. Allora, quindi, prima cosa: dove la storia è stata narrativa, noi abbiamo bisogno di una storia esplicativa. e poi vedremo il perché. La storia narrativa oggi mantiene una sua funzione, se ci fate caso, nella dimensione della comunicazione storica, che è una cosa da tenere presente, attenzione, perché un conto è la produzione scientifica, un conto è poi la come si scrive la storia, come si diffonde la conoscenza storica. Allora, se la mettiamo sul piano della comunicazione storica, non c'è dubbio che un film, che un format televisivo, che un videogioco, che una cosa, molto più a loro agio se racconti qualcosa, una battaglia, un personaggio particolare, ma sul piano scientifico questo perde enormemente importanza, invece acquista, per la ragione che vi dicevo prima, la difficoltà di dare un senso al tutto, acquista molto importanza la dimensione esplicativa. Perché è successo questo e che conseguenze ha lasciato? È immaginabile che, metti pure che domani Assad riesce a sconfiggere i suoi oppositori, la Siria torna quella che era prima? Molto difficilmente. L'Iraq, mettiamo pure che togliamo di mezzo l'ISIS, l'Iraq torna a essere quel mosaico di sunniti, sciiti e curdi che era prima? Intanto vogliamo spiegare mo ai curdi che hanno a portata di mano l'obiettivo del Kurdistan, che devono tornare. Non solo, ma se batti l'ISIS grazie agli iraniani, qualche cosa gli devi dare agli iraniani, quindi l'idea del grande Iran ci sta. E quindi, allora, ecco, perché è successo, che conseguenze ha lasciato? È lo schema fondamentale di ogni ricerca storica del futuro. Certo che ci interessa sapere, ecco, un'espressione come quella di von Ranke, per cui non ci interessa sapere perché, noi ci accontentiamo di sapere come è andata. E no, non ci accontentiamo. Un po' perché, certo, sapere come è andata resta importante, perché se non sai come è andata non sai nemmeno perché è andata in un certo modo. Però la verità è, il come è andata va bene per una dimensione erudita della storia, ma da un punto di vista operativo, e guardate che qui noi abbiamo a che fare con un mondo che non è più disposto a spendere una lira per produrre pura erudizione. La crisi delle scienze umanistiche è questo. Cioè l'idea è, vabbè, ma perché poi alla fine dobbiamo insegnare storia e geografia, che significa spendere soldi per tanti insegnanti, eccetera, cosa ce ne fotte? Ma devi dargli proprio di me? Beh, vabbè, sai che fai? Riduci l'orario di storia da 3 a 2 ore settimanali, magari ci annetti pure geografia, così 1 ora alla settimana, così risparmi l'insegnante di geografia. Oppure diminuisci le ore di italiano, di letteratura, perché così, anziché dare 2 classi, 2 sezioni al professore, gliene diamo 3. E così. Ecco, allora, in una dimensione del genere, o tu dimostri l'utilità, anche pratica, sono molto chiaro in questo senso, della storia, o la storia è destinata a morire, a scomparire. Seconda cosa, dove la storia era narrativa, era specialistica, inevitabilmente deve diventare transdisciplinare. Il mondo della globalizzazione non è globalizzato solo nel senso di mondializzazione, è globalizzato anche perché i problemi si presentano nella loro globalità. E quindi uno dei problemi che c'è qual è? La maggiore aderenza delle parti al tutto, all'insieme, il che però ha il piccolo inconveniente di rendere molto più veloce il contagio di tutto, delle pandemie, delle crisi finanziarie, delle crisi internazionali, dei flussi migratori. Cioè, più è ovvio che in una società in cui i rapporti sono piuttosto scollegati, le i trasporti sono molto più rari e costosi. Se succede la guerra civile da una parte, beh, vabbè, chi sopravvive sopravvive e buonanotte. Se questo succede nel 2014 e scoppia la guerra civile in Siria e in Eritrea, ti arrivano flussi di rifugiati politici fino a Milano. È ovvio. Quindi quanto più le singole parti sono integrate al tutto, tanto più. Però se questo è lo stato di fatto, significa che noi dobbiamo studiare i fenomeni storici già a partire grosso modo dagli anni Ottanta come fenomeni di insieme, perché le parti non sono soltanto parti geografiche, sono anche parti, per così dire, tematiche, diciamo di sfere di competenza. Dove la storia precedente era nazionale, inevitabilmente la prossima storia deve essere a dominante internazionale. E non bastano più le relazioni internazionali fra stati, perché se una multinazionale, una banca comprano un'azienda di un altro paese, o il fondo sovrano cinese compra il porto greco, o succede che il campionato di calcio in Brasile produce certe cose, o succede, c'è poco da fare, oppure ci sono i flussi migrativi, oppure ci sono le brigate internazionali islamiche. Il terrorismo non è più un fatto nazionale, è un fatto per sua natura che tende a essere globale. Quindi a questo punto la storia nazionale non è più quella che contiene il grosso. Ancora, dove la storia tradizionale, la storiografia tradizionale era eminentemente politica, la nuova storiografia deve essere globale. Attenzione che globale non significa totale, Io non posso pretendere che uno si intenda di cultura, di sport, di economia, di finanza, di scienze militari, di politica, di filosofia, è ovvio. La storia che noi andremo a scrivere tenderà a costruirsi come specialismo transdisciplinare, dove lo storico mette insieme alcune, non ce la farà mai a mettere insieme tutto, però ciascuno in qualche modo porterà un suo contributo, per esempio mescolando l'aspetto giuridico, l'aspetto finanziario, l'aspetto politico, l'aspetto militare, e poi non saprà un cazzo di problemi della condizione della donna o del problema dell'immigrazione, non si può sapere tutto. Però naturalmente più ricco è il ventaglio di angoli di osservazione, più hai una storiografia più penetrante, più capace di spiegare. Però naturalmente non arriverai mai alla totalità. Devi pensare a una storiografia che è uno specialismo transdisciplinare, dove la storia aveva una strategia eminentemente analogica, tu invece devi avere una strategia eminentemente comparativa. Guardate, la dimensione analogica cerca di confrontare episodi, storie diverse, lavorando molto sull'asse diacronico. Quello che sta succedendo nella crisi della democrazia italiana di oggi ha a che fare con il passaggio dalla democrazia dei comuni alla signoria fra il 3 e il 400? Per carità, sì, non è che sia inutile e da abbandonare totalmente, ma non è più l'asse principale. Oggi, proprio per le ragioni che vi dicevo sui problemi della traducibilità dei concetti e della compenetrazione fra le culture, cioè lo storico del futuro ha un problema molto delicato, deve rispettare la pluralità delle culture nazionali e delle culture, diciamo, ma nello stesso tempo rendere in qualche modo compenetrate. L'idea rozza per cui non esiste, parliamo tutti in inglese, la cultura è tutta quella americana, la dimensione nazionale non conta più un cazzo di niente. È una sciocchezza, come dimostrano crisi come quella ucraina, come quella medio orientale. Allora, da un lato tu devi mantenere il pluralismo culturale, dall'altro però devi renderlo in qualche modo compenetrabile l'uno all'altro. E per fare questo la dimensione comparativa è molto, l'argomentazione comparativa è molto più importante di quella analogica. Per cui è chiaro che nelle strategie argomentative la comparazione prenderà il sopravvento. La storia tradizionale era a finalità etica, la storia futura deve essere a valutativa. Attenzione, anche qui c'è un punto delicato. Beh, un po' perché lo storico è pur sempre un uomo del suo tempo, un cittadino, ha una sua individualità politica, per cui è chiaro che poi ha anche le sue posizioni politiche. Di fronte a una questione come Gaza, tu devi dire da che parte stai e cosa pensi. Può essere sfumato il giudizio, eccetera, però si può tacere di fronte a un massacro del genere, o di fronte alla Shoah, o di fronte... No. Però questo va tenuto rigidamente separato dall'intervento scientifico. L'intervento è giusto che tu possa esprimerti, anzi è onesto che tu lo faccia, ma tu devi studiare soprattutto il perché e le conseguenze, che poi queste conseguenze abbiano carattere morale, auspicabile o non auspicabile, possiamo discuterne, ma non dimenticate anche una cosa, che se siamo impegnati nel lavoro di traducibilità dobbiamo dare per scontato che quello che è moralmente inaccettabile per te, oh, c'è un problema, c'è una contraddizione molto forte in quello che io vi sto dicendo. Se l'ISIS prende la simpatica abitudine di decapitare tutti quelli che facciamo? Cioè, è evidente che per noi la prassi di decapitare dei prigionieri è piuttosto antipatica, diciamo la verità, pone dei problemi. Non da tantissimo. Però. Viceversa, beh, insomma, abbastanza, dai, perché non è soltanto l'idea del decapitare che è quella, per la verità. Diciamo le cose come sta, dipende pure dalla carta, perché ci sono teste che non fai un danno, non se le stacchi, è l'idea del prigioniero, e questo già dal 200, l'idea di che ci sia uno ius in bellum, per cui certe cose si possono fare, eccetera, eccetera, ci sta. Chi sono quei salvaggi? Però vabbè, ma noi rispettiamo il pluralismo di cultura, per carità, non è. Però perché hai capito? Siamo valutativi. capisci? Perché uno valutativo dovrebbe dire: ma perché cazzo gli tagliate la testa? È molto più economico una pallottola nelle tempie. Cioè, fa anche meno scena. No, ma noi vogliamo fare scena, che è tutto lo scopo, no? Allora, capisci che qualche problema si può. Non è una cosa così de plano. Ha dei problemi la valutatività. È il confine rispetto all'inaccettabilità, al giudizio politico che non può scomparire, è un problema che si, e non è un confine fisso. Ultima cosa, è riassuntiva di tutto, se la storia, la storiografia che abbiamo fatto finora è stata essenzialmente analitica, la storiografia del futuro ha bisogno di essere sintetica. Abbiamo bisogno non di sapere la storia di ogni quartiere di Kirkuk e di ogni piccola etnia che c'è in Siria, abbiamo bisogno di grandi sintesi storiografiche. Il Novecento noi non lo capiremo se non attraverso grandi, cioè quando tentiamo un'operazione come quella della storia criminale, della rivoluzione criminale, che cos'è? Il tentativo di individuare un asse narrativo, un asse che può essere spiegato, può essere in qualche modo studiato nelle sue cause, nelle sue conseguenze, che copre un arco di tempo estremamente lungo, dopodiché non ci mettiamo È ovvio che una storiografia del genere difficilmente, e qui si pone il problema sul trattamento del documento, che facciamo? Ci mettiamo a leggere tutti gli atti processuali di ogni singolo processo di mafia, di camorra, di 'ndrangheta, di triadi, di cose, non finiamo più. È ovvio. Se c'è chi lo vorrebbe fare. No, però l'operazione, cioè voglio capire. Tu se operi da cosa, ecco, a partire da cosa la costruisci? Esatto. Non dai calici, allora, ma... beh, attenzione, il tutto è sempre più della somma delle parti. Quindi intanto a te interessa il tutto. In secondo luogo va pensata, e questo è il punto finale, un'organizzazione diversa degli studi storici. Noi siamo abituati all'idea, prima di tutto, della storia scritta dal singolo storico. Una delle fissazioni di Croce era l'unità narrativa, per cui l'opera non poteva che essere del singolo. Lui detestava le opere collettane, eccetera. Va detto che su molte cose ha ragione, perché molte opere collettane sono delle prese per culo, perché sono tanti saggi individuali appiccicati insieme. Quello non è un'opera collettanea, quello è una sommatoria da frambuggi, insomma, detto proprio. È una logica Allora, il problema è che hai bisogno di una storia, hai bisogno comunque di scienze umanistiche che la smettano di ragionare in termini di singolo genio. Le scienze, questo anche l'altra scienza, questo ha... A questo punto ci sono già arrivato. Le scienze fisiche naturali non funzionano più sulla base del singolo genio che ha l'illuminazione già da 70 anni e forse qualche spiccio di più. Cioè, ormai hai grandi gruppi in cui c'è indubbiamente il ruolo individuale, c'è la capacità di andare a vedere quello che ha fatto l'altro, eccetera. Ma sostanzialmente c'è un'idea di lavoro integrato. Non necessariamente dobbiamo far parte dello stesso dipartimento o dello stesso progetto di ricerca. Magari io poi vengo a vedere il progetto di ricerca che hai fatto tu. E il tutto in qualche modo ha una regia nei finanziamenti. Per cui, ragazzi, bisogna studiare il virus dell'Ebola. Ecco, se fossero gli storici o i latinisti, ci sarebbe uno che studia l'Ebola in Marocco, un altro che studia invece l'infezione da TBC in Mauritania, un altro che chiederebbe finanziamenti per fare la storia della polio in Madagascar, e ovviamente l'insieme non significherebbe un cazzo, perché sarebbero delle cose utilizzate. Noi dobbiamo porci il problema del come la ricerca storica debba cominciare ad avere carattere organizzato. Per cui va benissimo, cioè io non ho detto che non si debba più studiare casi singoli, però uno, bisogna distinguere fra caso singolo e grande processo. Ecco, non possiamo... Il caso singolo darà luogo, i casi singoli daranno luogo a opere per cui magari ci sarà una storia di criminalità in Cina, un'altra in Giappone, un'altra... E alla fine quello che studia naturalmente non lavorerà più su documenti di prima mano prevalentemente, se non quando questo sia strettamente necessario a dimostrare qualcosa. Lavorerà prevalentemente, inevitabilmente, su fonti di seconda mano, cioè su libri, saggi, eccetera. Poi quando si rende necessario andrà a vedere il processo a Bosilai, e magari perché c'è una cosa sulla corruzione particolarmente importante che vuol vedere. Ma in realtà alla base ci saranno contributi, cioè in qualche modo è un processo un po' imbuto se vuoi arrivare a quello. Quindi va bene le storie particolari, però anche lì capiamoci, seconda condizione: non si studia qualsiasi caso, perché tanto io sto a Molfetta, c'ho il fascicolo del processo, della malavita molfettese e scrivo un libro sulla malavita, e chi se ne frega, cioè non è che se mettiamo insieme un articolo sulla malavita molfettese, uno sulla malavita malindi e un altro sulla camorra in Canada, esce niente, non esce un cazzo. Il problema è selezionare i casi in base al loro carattere esemplare. Non puoi fare, cioè, anche se avessimo una storia di tutti i singoli processi, cose, cioè, bene, che te ne fai? Chi cacchio è in grado di vedere tutta questa roba? Dovrai comunque passarla a un vaglia, a un vaglio per cui tu ti occupi della Cina, tu ti occupi, inevitabilmente, no? Non solo, ma tu che ti occupi della Cina, che fai? Ti occupi di tutti i processi, sì, vabbè, manco quattro vite, andrai a scegliere i processi, perché quella è una banda particolarmente importante, lì si vede molto bene il rapporto col partito, lì la cosa invece è stata interessante perché si è agganciata a una rivolta interna, cioè ci saranno dei criteri di selezione per cui scremi. Il problema, tornando all'inizio, è la formazione del quesito. La scrittura della storiografia e la formazione del quesito procedono insieme, anche se tendenzialmente è chiaro che il quesito precede la scrittura, però poi inevitabilmente la scrittura man mano farà nascere altri quesiti, li specificherà e così via. Ogni conoscenza nuova porta con sé la curiosità per una nuova conoscenza. Tutto questo però deve avere un carattere organizzato, non può essere l'attuale scombino per cui la mia amica Ada si occupa di storia dei giornali, il mio amico Maurizio Punzo di storia del Partito Socialista, la mia amica Barbara Bracco dei cimiteri e dei monumenti funebri in tutta Italia. Quello, no, questo insieme non descrive un cazzo. Allora, il come questo dovrà venire è un altro paio di maniche, poi magari se ne parla. Il problema è capire come sta, cioè c'è poco da fare. Le scienze umanistiche non possono pretendere di restare al Settecento, mentre le scienze naturali hanno avuto questi sviluppi. L'avvicinamento, e questa è l'ultima riflessione, fra materie umanistiche, quindi anche storia, e scienze, fra scienze umane e scienze della natura, scienze matematico-fisiche, matematico-naturali, e nei fatti è chiaro che rimangono cose distinte, per carità, non, però in qualche modo che inizino a rispecchiarsi dei metodi, dei modi, delle organizzazioni di lavoro, è inevitabile. Vabbè, io mi fermerei qui anche perché ho parlato tantissimo. Io e c'è ancora tempo sull'ultimo punto che però, se la storia del processo la si affronta solo andando su fonti secondarie, cioè qualcuno che però lavori sulle fonti primarie per far accedere qualcun altro alle fonti secondarie. Ed è giusto che ci sia questa partizione del lavoro. Certo. È giusto che... io non ho detto che dobbiamo cancellare. Però quello che lo fa mi deve fare il cazzo piacere di scegliere il caso in base alla sua significatività. Sì, allora, sì. Negli anni 70 abbiamo cominciato bene a fare, in modo più analitico, la storia del fascismo a Ferrara e a Cremona. Era giusto, perché a Ferrara c'era Italo Balbo e a Cremona c'era Farinacci, Cerignola, va bene, c'era Caradonna, e Surbo non ce ne può fottere di niente, cioè di Surbo, guarda, però non ce ne frega niente, cioè un qualche cacchio di criterio, cioè quella che mi dice io sto facendo la storia del cineclub di Sassari, fra il 1939 e il 40, organizzato dal WUF di Sassari. Decapitazione. Sì, quella è un'idea, quello è uno dei momenti in cui chiamano quelli dell'ISIS. No, usiamo la ghigliottina, che è un simbolo che ci... Ecco, vedi, il carattere avvalutativo che esprimo parlato. No, è etico proprio, è etico, non è avvalutativo la ghigliottina. Quella, la mia amica anche di Mirko Dondi, che mi spiega il perché bisogna studiare, che Simona, non mi ricordo se tu stavi, sì, sì, che io feci un'ora di notte, perché mi spiegava che bisognava studiare il WUF di Ancona. Lì proprio lei si è presa male. Sì. Perché il WUF di Ancona è diverso dagli altri, anche perché gli è partito il WUF, la bombardata. Che cazzo vuoi dire? Cioè, in che cosa ci cambia la visione del fascismo il fatto che il WUF di Ancona, non so perché, era diverso dagli altri WUF? Si capisce? Metti pure che, vabbè, e dopo il WUF di Ancona, non so, ha piazzato un ministro, uno che ha avuto... No, non ha contato un cazzo. Cazzo ne frega niente. Cioè, questo è uno degli... L'idea, piantarla con l'idea dell'intellettuale umanista che ha le sue curiosità e lavora per... Hai le tue curiosità, lavora... Pagati le tue ricerche e pagati il tuo stipendio. Non rompere i coglioni. Se ti pago, mi fai il cazzo di piacere di fare qualcosa di utile. Punto. Cioè, questa idea della libertà del ricercatore come libertà di sega, fondamentalmente, cioè, no, non si può accettare. Quindi, sì, sì, bisogna lavorare sui documenti, però, ragazzi, mettiamoci d'accordo, eh? Perché, per esempio, potrebbe essere anche interessante una organizzazione di studi per cui lo studioso giovane, quello che fa il ricercatore, cioè, si occupa di casi particolari che gli vengono anche assegnati, il dottorando, perché prende la mano, impara un pochino il mestiere, no? Cioè, gli serve anche, poi man mano, e nel frattempo i suoi lavori servono da base ad altri. Non c'è niente di male in questo. Io ho pure un'altra domanda, sempre sul metodo, cioè curiosità, nel senso, perché poi sono anche ragionamenti che noi ogni tanto su Collapso ci siamo fatti, perché è vero che servirebbe, come dire, ci sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, eccetera, e la premessa fondamentale sarebbe una riorganizzazione anche un po' dall'alto della disciplina, del metodo di studio, di formazione e così via. Però attualmente, dove di fatto gli studenti di storia diventano ultra precari, senza di fatto anche il tempo per poter effettivamente poi fare lo storico, no? E visto che a livello alto, cioè accademico, statale, eccetera, non c'è assolutamente in questo momento, se non qualche singolo caso, ma... E non ci sarà. La domanda è... Come si fa? Cioè, perché... Prima di tutto nel senso... chiude l'università statale. Di Milano. No, va benissimo. No, io su quello sono anche... Si chiude l'università cosiddetta pubblica, che in realtà è statale. E si fa un'altra cosa. No, perché la mia domanda è... Prima punto... cosa, cioè proprio... No, scusate, volevo... Si ammazza volevo finire un attimo questa cosa. Perché la mia domanda è, a questo punto, può, secondo te, un gruppo, o i gruppi che poi alla fine nascono abbastanza spontaneamente, sperimentando un metodo di lavoro più d'equipe, più... non lo so, riuscire in qualche modo a introdurre una innovazione nel metodo della ricerca? Perché io il dubbio che ho spesso volentieri è, cioè, noi magari stiamo anche imbroccando la strada giusta, ragazzi, poi però voi siete una generazione che deve inventarsi il suo lavoro. Sì, se non ve lo inventate, voi farete gli storici dei call center. Sì, sì. Quella è la cosa. Potrete anche scrivere interessanti opere sul dog sitter, accompagnatori per cani, pedicure, cioè, c'è un sacco di cose serie da fare. Allora, se non volete finire a fare questo, è ovvio che dovete inventarvi voi. e dovete anche spiegare agli altri l'utilità di quello che avete prodotto. Secondo me è un po' più semplice partire dalla comunicazione storica perché è più vendibile. Però attenzione, perché anche il resto comincerà a esserci sempre più domanda di cose del genere. Cioè, bene o male, un'analisi fatta come, certo, strappando il tempo, mi rendo conto, ai lavori che sei costretto a fare, non so, sono convinto di questo. Ma secondo me, adottando un criterio organizzato per cui poi si producono certe cose, e quelle cose possono essere interessanti anche sul piano dell'analisi, e prima o poi una domanda di analisi verrà. Tu lo vedi che cominciano già in qualche modo i giornali, fino a un certo punto, ma anche perché i giornali ormai temo siano moribondi, anche per le cagate che immonde che fanno. Mi dispiace dire che quelli che lo dico con vero dispiacere, quelli che hanno maggiore sensibilità per questo genere di produzione sono i servizi, perché sono quelli che lo avvertono di più, proprio per ragioni strettamente di lavoro. Certo, questo è sgradevole, lapsus per l'aisi. Questo è molto sgradevole, però attenzione, perché prima o poi questi trasmetteranno questo genere di esigenze alle istituzioni culturali, alla Presidenza del Consiglio, alle regioni, per cui per capire che cazzo sta succedendo con l'immigrazione e come la devi trattare devi anche avere una capacità di analisi di queste cose. Quindi in qualche modo, per fortuna, queste cose sono destinate a cambiare, perché se non cambiano è una catastrofe. Se vuoi gestire il fenomeno dell'immigrazione o crisi internazionali come queste, a tutti i livelli, quindi prima o poi anche le formazioni politiche, insomma, ragazzi, ma voi pensate che si può andare avanti con un ceto politico che discute di una crisi come quella dell'ISIS come si è discusso fra Di Battista e gli altri? Ma voi le avete lette le cose di Battista e le risposte degli altri? Per dirla finemente, è proprio la praqueca di mezza la piazza, cioè una cosa indecente, di un'ignoranza totale, cioè proprio si ignoravano le cose, a parte si ignorava il buonsenso, perché a quel punto uno salta su a dire il problema non è quello di dare le armi a chi non le ha, ma di toglierle a chi le ha. E io sono pensato, chi si offre di andare? Tu a dire a quelli del Infatti ha vinto il console iracheno, gli ha detto, i documenti sono, se vuole andare a trattare lui, infatti, i documenti sono. Giustamente, devo dire per una volta, ha detto, puoi andare a trattare, ma no, questo è visto, vai, vai. Minchia, se avessero decapitato Di Battista, 5 Stelle schizzavano al 60%. Sì, quello è il caso fatto, che non lo decapito. Io in realtà mi arruolavo nell'ISIS. Minchia, code. No, ma quello di arruolamento. Ma quel Doug Crovet, che capisci quando non è chi fiume. Ma anche tanti clacar, cioè diventa degradante tagliare una testa del genere. Testa di cioè, insomma, ragazzi, si può parlare della crisi ucraina come ne parlano la Mogherini, ma voi vi rendete conto, sapete chi è che sta trattando in questo momento con i russi e proponendo una sua mediazione? Berlusconi, che sta attaccato al telefono, che chiama Putin e si è offerto a Renzi come mediatore. Disinteressatissimo, tra l'altro. Matteo, vado io, faccio due scopate e torno vicino. Morto. No, ma la cosa divertente è che se magari questo riesce, perché poi l'uomo una sua fantasia ce l'ha, magari una puttanata se l'inventa, non so, perché poi lì c'è anche il fatto che da un lato ciascuno sottovaluta l'altro, però dall'altro lato c'è il problema che ciascuno deve salvare la faccia, gli devi dare una via di uscita, perché sennò capace cosa una cosa di bene. Vi rendete conto che se quello dovesse essere il mediatore di Salvatore del mondo e il prossimo presidente del Consiglio, non la grazia, quella va bene, la beatificazione, senatore a vita, santo in vita, certo. La capisci se succede. Allora, voi vi rendete, vi rendete conto che Berlusconi, che è quello che è quello che ha le idee più chiare in questo momento, e secondo te cioè è inevitabile che, d'altronde, se esiste una rivista come l'Ines e poi è venuta fuori a Spegne, cioè, vuol dire che una qualche domanda di qualche cosa c'è. Poi bisognerà trovare la formula, vabbè, quello poi ci penseremo. In questo devo dire, non sottovalutate la proposta di Poletti, che state un po' snobbando. Quella invece può essere una cosa molto interessante, per due motivi. Primo, perché come sito avrebbe un suo target molto particolare e potresti fare l'operazione delle lettere riservate, con abbonamento a 200-300 euro, quindi diciamo un certo tipo di interlocutore. Ma perché lui poi sta svoltando una cosa, sapete che lui ha questo circolo della taverna della Colonna dove fa questi incontri, pare che gli abbiano fatto, c'è una con le cene Canova, che è una cosa che sta a Roma, però di altissimo livello, dove c'è tutto un giro molto elevato, gli ha offerto la possibilità di farlo a Milano. Ora, se questa cosa riesce, perché quella è una sigla importante, e lì si può creare una situazione di interlocuzione con il mondo bancario, con il mondo imprenditoriale, con il mondo diplomatico, perché a Milano ci sono le vice ambasciate. Anche Milano è la terza città del mondo per densità di ambasciate, come si dice? E certo. Dopo New York e consolati, dopo New York e non so che altro. Per no, cui cioè, c'è tutto un parterre che si può raggiungere, rispetto al quale possiamo vedere di fargli giocare una qualche partita. Intanto pare che io sia riuscito a far passare l'articolo di un mio, del figlio di un mio amico per l'Ines. Allora, c'è il figlio di un mio amico che si chiama Guido Secchi, che fa non è proprio un ragazzino perché ha i suoi 33 anni, credo che faccia l'ingegnere, conosce il russo, è stato molto in Russia, eccetera, e ha scritto un articolo anche interessante sulla crisi ucraina, dove dicendo, guardate che al di là di questo, aspetti territoriali, etnici, sono tutta una serie di problemi economici, di cose, cioè che lui spiega abbastanza bene, che è buono. E l'ho spedito a Caracciolo, che gli è piaciuto assai questa cosa, mandami la sua mail che voglio entrare in contatto, eccetera. Allora, come vedete, un poco alla volta, un poco alla volta, qualche cosa si riesce a fare. E quindi non è secondario il fatto. Voi in questo devo dire che ci avete un problema, tenete le descite che sono un po' anchilosati, eh? Perché se si tratta di organizzare un evento, una mostra, sì. D'accordo? Si tratta di scrivere, di fare analisi, di pubblicare, le decite sono un po' rattrappiti. E invece secondo me si può. Quindi, risposta a te, devi imparare a nuotare come si fa nella mia città. Tu sai come si fa a Bari? A Parigi. Sa quando Pcinin, però quando ha 5-6 mesi, e salì a mare. Quello nuota, non affoga mai. Ci devi provare, cioè. Potrebbe essere una massima cinese, tradotto in barese. A Wanda. Cinese, parigina, londinese. Sì, sì, sì. A proposito di traducibilità. Il barese ha una sua traducibilità. Globalità. Globalità. Tu devi porre dei quesiti? No. Posso farlo io? Prego. Qualcun altro? Tre domande, tre cose. Una è una provocazione, ma così, che mi è venuta. Cioè, che su cui stavo. Mi stavo trastullando in questi giorni, te la faccio alla fine. Parto da un'altra cosa. Per scrivere l'articolo dell'altro giorno ho riletto grandi pezzi dell'abuso pubblico della storia, che è un libro fighissimo che dovresti scrivere adattandolo, ma vabbè. E... sentiti libero. No, in realtà lui ha ragione quando dice fatelo voi e io vi do una mano, però prima o poi ci arriveremo. Detto tutto quello che abbiamo detto, tu a un certo punto dici Murato, cioè gli storici del Settecento che hanno, come dire, che piano piano hanno dato vita al canone repubblicano, cioè alla storiografia repubblicana, non è che si sono trovati dall'oggi al domani che era un canone riconosciuto, autorevole, credibile, chiamalo come vuoi. Tu parli, usi un termine esplicito su cui ho rimuginato in questi giorni, tu parli proprio di hanno dovuto lottare per affermare quel tipo di canone. Ora, la riflessione che stavo facendo in questi giorni è... anche perché i principi non erano... Esatto, cioè, siamo in un momento... Allora, è una riflessione che forse esula un po' dal seminario di oggi, però è una roba che ho in testa in questi giorni e quindi te la voglio chiedere. Siamo in un momento fortemente reazionario, comunque di scontro di principi, cioè nel senso non si vede all'orizzonte, a parte i Wuming che ci hanno portato alla luce la storia del PKK e le esperienze che sono in corso, però comunque siamo sempre di fronte a esperienze deboli, di nicchia, chiamale come vuoi. Per cui c'è, comunque, a parte quelle, però nel senso, all'orizzonte non si vedono, come dire, arrembanti truppe di storiografi repubblicani pronti a... No. Per cui c'è, oltre al fatto che dobbiamo inventarci, dobbiamo imparare a nuotare come si fa a Parigi, mi chiedo se siamo davanti al fatto che dovremmo anche sgomitare per ritrovare uno spazio che non c'è più. Cioè, se mi avessi detto da 100 anni a questa parte c'era uno spazio per la storiografia repubblicana, te avrei detto sì, perché sono i canoni che tu analizzi nel libro, che conosciamo e così via. Ma stiamo a zero, quindi su questa cosa bisognerebbe un po' ragionare. La seconda, che è connessa un po', è... tu parli di come il termine di geopolitica è shiftato nel tempo da... Una scienza di destra, o comunque una scienza con le sue caratteristiche ideologiche, è come invece diventata una cosa di uso comune. Questo però uso comune sta un po' nella vittoria del principe di questo periodo, per cui c'è lo scontro è tra Putin e la NATO, ma non è che Putin è un compagno e la NATO sono i cattivi, cioè sono principi che cozzano. E quindi anche lì a maggior ragione ci manca una lettura di un altro tipo. La terza cosa è la provocazione. Posto che sono d'accordo con quello che dici, però la crisi dell'intelligence, perché chiariamo oggi con Ciro, la sconfitta dell'intelligence, dell'analisi dell'intelligence a cui assistiamo, per cui mancanza di comprensione dell'ISIS, se vuoi anche mancanza di comprensione di Putin, cioè, Ranieri sul Foglio lo dice in continuazione, non capiamo un cazzo di... cioè noi Putin non lo capiamo, no, perché non abbiamo accesso alle sue informazioni, perché tutta una serie, cioè, per cui ogni mossa che fa sembra sempre una mossa a sorpresa, anche se l'altra sarebbe comprensibile. Allora, la provocazione è... sta emergendo un po' una... cioè, o meglio, dobbiamo interrogarci sull'efficacia dell'OSINT? È chiaro che per noi in questo momento è una delle, come, è difficile avere accesso ad alcune fonti, ci mancano, ma per limiti nostri, perché siamo, come dire. Però quanto l'OSINT è manipolabile a sua volta e quanto dobbiamo imparare ancora moltissimo a nuotare nell'OSINT? Io, scusate, ma devo purtroppo abbandonare. Sei il solito disfattista. Sei un... in questo momento, mai, cioè, in questo momento sei veramente schettino, sei schettino, stai abbandonando la mano. Però prima che te ne vai, una cosa te la devo dire. Io sono con i mezzi. Vedi, sì, il rapporto fra storiografia analitica e storiografia di sintesi. Sì, è ovvio che deve esserci un interscambio, però ricordati una cosa, che si vede sempre prima la foresta degli alberi. Tu prima vedi il bosco e poi cominci ad analizzare gli alberi, ma è fondamentale che tu abbia l'idea del bosco e che trovi il termine. Non c'è bisogno di conoscere ogni singolo caso per avere la sensazione della rivoluzione criminale, cioè che la criminalità abbia un livello di condizionamento politico ed economico come mai è successo nella storia, beh, è così evidente, il fatto autoevidente. Per cui intanto devi cominciare, l'importante è avere l'idea guida, poi su quello cominci, su quello magari sarai tu a determinare il quesito che molti altri cercheranno poi di vedere, ma vediamo che cazzo succede in città, in Croazia, in Albania. La scienza non nasce mai con un, ecco, il tomo che esce dal cervello di Giove con Minerva Arnati, mai, è sempre il prodotto di un dialogo, di uno scambio di polemiche, di scazzi, di cose, cioè al termine la grande opera, le grandi ideologie non stanno nella testa dei grandi filosofi, eccetera, stanno nella testa della gente, e in genere poi i filosofi riescono a capirlo, eccetera, e lo esprimono in genere con maggiore moderazione, ma funziona così. Quindi prima di tutto avere l'idea precede la, non è la sommatoria degli alberi che ti farà dire il bosco, ma il fatto che tu lo vedrai insieme. Poi dopo che schettino qui andare via. Ciao maestro. Ciao Ciro. Ragazzi, io direi che in questo tuo comportamento c'è un atteggiamento renziano. Minchia maestro, la tua superiorità in questo momento sta un po' traballando. Ma la nostra venerazione per te proseguirà. Ragazzi, buona serata, buon proseguimento. Ciao Ciro. No, è ancora presto per la cena. Beh, allora, ricapitolando le tue domande, beh, intanto non è proprio così. 4 anni fa nessuno di noi, 5 anni fa nessuno di noi avrebbe pensato alla primavera araba. Poi la cosa ha avuto un certo percorso, adesso pare che sia interrotta. La storia è sempre incasinata, non è. Quindi in qualche modo non è proprio così piatto lo scenario. Ci sono tutta una serie di segnali, cioè per esempio la rivolta contro la crisi in Occidente è ancora una cosa moscia da morire, sì, non c'è dubbio. Però attenzione, anche qua processi sociali ed elaborazione ideale sono cose che vanno insieme, quindi in qualche modo se non c'è una cosa non c'è l'altra, quindi l'OSINT. Ma io mi permetto di farti presente una cosa, che se rivedi il mio 2012, la previsione del fatto che sarebbe stato lo scazzo per l'Ucraina c'è, solo che io lo prevedevo fra la fine del 2012 e il 2013 ed è avvenuto un anno dopo, però insomma non è che ci sono andato tanto tanto lontano, eh? E io non è che abbia un servizio segreto a mia disposizione. D'altronde molte cose già le diceva, anche se in modo diverso, Caracciolo su Limes. Cioè la verità, allora, perché l'intelligence sta forando tutto? Perché non stanno capendo Putin? Sì, probabilmente c'è una mancanza di informazioni, ma credo che questa sia la causa minore. La causa maggiore, perché è quello, è Putin che non capisci, e quelle sono le rivolte arabe che non ti aspettavi, e quella è la caduta dell'URSS che hai appreso dai giornali, e quell'altro è il casino in Cina e la crescita cinese che è 10-12 anni avanti le tue previsioni, e quell'altro, insomma, devo dire che non li stai azzeccando uno, sempre difetto di informazione? Sì, può essere, ma la verità è che l'intelligence è vittima dei suoi pregiudizi, l'intelligence occidentale. quando io dico guardate che queste cacate di scienze politiche, di scelte politiche sono figlie della storiografia che si è scritta in questi anni, questo voglio dire. Se tu hai pensato che la globalizzazione fosse l'occidentalizzazione del mondo, per cui il mondo era un occidente imperfetto, bisogna avere un po' di pazienza perché io sono più che salvaggio, più che ritardato, ma poi man mano è chiaro che quei conti non ti trovi. Se parti dall'idea che controlliamo tutto con la finanza, per cui sei russo, voglio dire, quando gli faccio il culo così nella borsa di Mosca, vedi come tornano indietro. Invece no, perché uno come Putin non ragiona con quella testa. Uno come Putin se ne fotte che tu gli stai mandando a puttane il rublo, certo, gli interessa, ma non è su quello che torna indietro. In realtà io credo che in larga parte Fukuyama sia il responsabile di buona parte delle puttanate che sono state fatte in questi anni. Sì, prendi la stoccata. Quello amico di me. Sai che ieri ho preso il secondo di Fukuyama, quello dopo la fine della storia. Esportare la democrazia, Charles Caplavo. No, hai ragione su certe cose. Prof della serie come mi pesa sta capa vuoi. È una collana che dovremmo in qualche modo vedessi le recensioni. No, ma mi ha stupito le recensioni che aveva. Questo stai attento, in parte non ti deve stupire è l'effetto dell'organizzazione dell'industria culturale, per cui cioè proprio è automatico in quel momento, era in parte è sì, che la storia non sento uno parlare bene. C'è un principio di scienze sociali per cui o paese del cercato cotanecchio meglio. Cioè, siccome qua nessuno diceva piano che è provenzale, provenzale no, io non sì, sono più abituato provenzale stretto, non si capisce. A un paese dello cercato, cudannecchio o meglio. Traduce, paese del cercato, quello che tiene un occhio, quello che migliora. Ah, ah. Tu stavi in un mondo in cui nessuno diceva una sega. Cimbre. Arriva questo che ti dà quest'idea, ecco, a proposito di il bosco prima degli alberi. Ti dice, bene, questa è la fine della storia, abbiamo trovato, eccetera. Secondo me dopo già è arrivato Huntington che un po' più seriamente, devo dire, c'era più ragione Huntington, gli ha detto, no, Vittorio, non si capisce nulla. Cioè, non è per, con tutto il rispetto, sei una testa di cazzo. Cioè, e si è sviluppato un dibattito particolarmente ricco. Contro Francis. In realtà, poi anche quell'altro c'aveva le sue fisime, intendiamoci. Però la verità è che Francis è il principale responsabile delle cazzate che sono state fatte, perché ha dato una visione del mondo in cui sono stati allevati generazioni di spioni, che poi le spie, salvo rare eccezioni, non sono mai, sono sempre persone piuttosto mediocri, ti devo dire, raramente sono persone di grande... E in questo senso, tu a questo poi si è aggiunto un altro aspetto specifico, un'altra cagata che hanno combinato gli americani, per il quale questi hanno permesso ai loro uomini, hanno permesso agli uomini dell'intelligence, metti in sofinato, no per niente, per il computer lo dico, di dimettersi dopo 5, 6, 7 anni e andare a lavorare per agenzie private. Che cosa è successo? Che praticamente tu formavi un quadro, quando quello più o meno aveva capito come funzionava la macchinetta se ne andava, pigliava una barca di soldi di liquidazione e poi andava a guadagnare di più presso la Kroll, presso... e così via. Quindi hai avuto dei servizi segreti da dilettanti allo sbaraglio, uno peggio dell'altro, ma vedi anche chi sono stati le teste a capo della CIA, il più famoso, il più bravo, quello che più succede è stato Petraeus, che è uno che si fa beccare il capo di un servizio segreto per una mail di una chiandet che si è fatta con la segretaria, e sei chiandet. Coglione, cioè ti fai beccare su una puttanata del genere perché scrivi una mail, cioè tu che sei il capo di un servizio che sa che tutto viene intercettato, cos'è, cioè, scrivi la mail, okay, fa 5 smore. Ora, intendiamoci, sei un coglione, e questo è il meglio. Non ti dico quegli altri, perché l'attentato delle tue torri, che onestamente io non ci credo al fatto al che loro cinicamente lo hanno fatto fare per far chissà puttanare. Forse avevano la sensazione si sta preparando qualcosa, fagliela fare, ma non si aspettavano questo cataclisma. Il che ti dà l'idea di come sono questi, hanno dei risultati inversamente proporzionali ai soldi che spendono. Più te li smettono, più cacato faccio. Cioè proprio una cosa che è assolutamente improponibile. Quindi l'intelligence secondo me è il problema principale, è che ci si è dimenticati che intelligence viene da intelligenza. Cioè questa è una cosa che proprio non ha più corso, producendo apparati burocratici di dilettanti, il tutto con questi pregiudizi. L'OSINT, è certo che l'OSINT è manipolato, è per carità, che è per questo che noi leggiamo più giornali, più riviste, confrontando. Al solito però, stai attento, questo insisto sulla priorità dell'idea di insieme sul particolare, perché tu, se la notizia sull'attentato che sta preparando l'ISIS in Canada è giusta o non è giusta, quello non lo sai perché non hai elementi, se poi succede era vera, ma sul fatto, sulle dinamiche grandi dell'ISIS, quello ci arrivi. Sai, l'informazione, per fortuna, l'informazione minuta, quella sfugge, ma l'informazione sul fenomeno nel suo complesso, quello, ripeto, che prima o poi la Russia avrebbe tirato fuori i muscoli sull'Ucraina, ma insomma, gli fai lo scherzo delle rivoluzioni arancioni e va bene, gli fai lo scherzo che gli frechi il gas che non gli paghi, e va bene, tu cerchi di fare i gasdotti che passino di lì in modo da, cioè, e quelli te li bloccano, poi questi cominciano a venire fuori con un accordo con l'Unione Europea che è la premessa dell'ingresso nella NATO, per cui eccetera, il che significa che gli tolgono le basi a Vladivostok eccetera. Ma scusate, non siamo se, perché quello non dovrebbe tirare il discanassone? Cioè, se non lo capisci è perché tu pretendi che il cammello faccia la corsa del cavallo. Putin non è un cavallo come quelli occidentali, è un cammello, non puoi pretendere che ragioni come un cavallo. Questi hanno la cazzo della pretesa di pensare che Putin, Wang Jiabao e Xi Jinping, Narendra Modi, Lula, eccetera, pensino tutti come pensano loro. Perché dovrebbe andare bene? Cioè l'idea della modernizzazione come occidentalizzazione ha questo corollario, cioè l'idea che tu pensi che le elite di tutto il mondo siano ormai assimilate nel mondo della Platinum Card eccetera eccetera, e quindi tutti quanti pensano alla stessa maniera, ma non è vero. Tu ti sei dimenticato una cosa, ti sei dimenticato che qui in Europa, negli Stati Uniti, la gente non è disposta a morire, è la guerra, i russi sì, i cinesi sì, gli islamici non si parla, anzi si vanno a esplodere, se gli dici una guerra, una cosa, inviti a macaroni e carne. Sì, quelli proprio, cioè devi capire questa cosa, cioè questi continuano a non capire questa cosa, cioè non capiscono che per gli islamici, cioè loro non riescono a capire gli islamici, cioè non capiscono come possa accadere che questi vanno a morire come mosche, facendosi zompare in aria eccetera eccetera, perché come? Ma questo è chiaro, è una patologia. Allora tu gli spieghi, senti, scusa, 2 secoli fa, no, 3 secoli fa, c'era un signore che si chiamava Pietro Nicca che fece esattamente la stessa cosa, e tu gli hai dedicato corsi, strade, monumenti, eh? Il fatto che tu ti sia infrollito e non sia più capace di una cosa, non significa che anche gli altri non lo capiscono. Quindi il vero problema, secondo me, è nel pregiudizio, nell'atteggiamento mentale incapace di uscire dalle coordinate. Vedi quanto lavoro per uno storico di spiegargli che il mondo, ecco perché lo storico deve rispettare le singole culture nazionali o comunque di area, di civiltà, però le deve rendere in qualche modo compenetrate. Cioè, amico, l'islamico non spiglia parure se deve far zompare no, questo palazzo. Tu magari sì, ma quello no. Qui, regolati. E tra l'altro questi coglioni la stanno mettendo in modo tale, guardate che secondo me Putin, se costretto, non ci pensa due volte a usare l'atomica tattica, eh? Quello è capace di usarla. Secondo me non ne avrà bisogno, perché faranno tanti quelle puttanate che basteranno i mezzi convenzionali. Ma se dovesse essere, allora, che bello, chiaro. Tempi decisivi. Quello è un libro importante, quello è un libro che capisce il perché, comincia a porsi il problema del ragazzi, qui non stiamo capendo una sega. Non è così. Troverai una serie di riferimenti al fatto che c'è uno dei cardini, non è capito il mondo come mondo asimmetrico. C'è il libro che scrisse quello, mi ricordo, si chiama Il prossimo mondo come sarà? Piatto, caldo, affollato. Caldo può essere, affollato probabilmente, beh, lo è già adesso. Piatto? Piatto proprio no, sarà tutt'altro, è fortemente asimmetrico. Studiare la simmetria sarà uno dei compiti, sarà una delle categorie centrali della prossima ricerca storiografica, la simmetria. Perché la simmetria non c'era prima, cioè è chiaro che se tu stai in Cina e io sto a Roma e siamo su due piani diversi, chi se ne frega? Non c'è asimmetria perché non c'è contatto. La simmetria si determina quando entriamo in contatto e abbiamo idee diverse, parliamo lingue diverse, abbiamo armi diverse, abbiamo strategie diverse e non ci troviamo ai conti. Quindi la simmetria, quella è una delle cose che secondo me va studiata molto seriamente. Io ho una domanda che c'entra con la traducibilità e anche